9. Sì, che non si capisce un cavolo di quello che dici. Final Batte in the Raw. Sono per i lasci che passano in corso a mezzanotte, lo tolgono, mi esce la tavola. sono di San Raggio, ristorante, ma ci sono altri che attacco e parliamo, e se poi usciamo, Massimo. Usciamo. Piero Pires, alla signora, ho fatto una mani con San Raggio. Sì, questa me ne vengo, dai. Allora, signora. Cari, torniamo su 14. Guarda. Ecco. Ma tu su 14. Faccio il cazzo, stai chiuso. Caffa, non pensavo che fosse un altro, dai. Ho visto che sei tu. Sono arrivati, sei. Thank you. Ma è un inverno. Thank you.